Leggendo gli episodi narrati nella parola di Dio, dobbiamo tenere presente il lato umano delle persone di cui si parla. Uno degli errori fatali per chi studia la parola di Dio è proprio quello di considerare gli eventi senza tener presente quelle che sono le caratteristiche tipiche della natura umana. Malati come siamo di romanticismo, consideriamo i personaggi descritti quali esseri diversi da noi, come se essi fossero immuni da tutte le problematiche che ci condizionano. Giudichiamo i grandi uomini di fede che compirono cose straordinarie, persone dotate di altre capacità peculiari e non soggette a prove e tentazioni uguali in misura e portata a quelle che noi stessi subiamo. Eppure, la Scrittura non ci permette tale illusione. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, Giacomo 5,17. Elia un uomo come noi, il grande Elia colui che, tutto solo, ebbe il coraggio di sfidare 850 profeti. Era un uomo come me, come te. Incredibile! Alla luce di questa premessa, potremo comprendere appieno le seguenti riflessioni. In questo studio ci interessiamo di Simone di Giona, o Simon Pietro, chiamato, semplicemente, Pietro. Non è possibile ignorarlo, sia perché a lui sono state date le chiavi del Regno dei Cieli, sia perché è l'Apostolo che, come tutti e quattro gli Evangelisti ricordano, rinnegò per tre volte Gesù. E, noto lo zelo di Pietro, è risaputo che solo lui ha detto espressamente a Gesù che lo avrebbe seguito ovunque, che avrebbe dato la sua vita per lui. Il suo zelo e il suo amore per il Maestro erano sinceri, non avevano limiti, eppure arrivò il momento in cui tutto ciò che aveva detto fu messo alla prova. Arrivò la prova del 9, alla quale egli fallì miseramente. L'umiliazione fu cocente. Per cui, come leggiamo nel Vangelo di Luca, allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Luca 22,62. Pianse perché aveva rinnegato il suo maestro dopo aver dichiarato pubblicamente di essere disposto a morire per lui. Tutti gli altri discepoli l'avevano udito. Ed ora egli lo aveva spudoratamente rinnegato. Almeno avesse tenuto per sé ciò che pensava. Non avrebbe fatto brutta figura. Avrebbe salvato almeno la faccia. Ma ormai era tardi. Era irrimediabilmente svergognato. Non aveva più nessuna reputazione da salvare. Aveva toccato il fondo. Dalle stelle. Era passato alle stalle. Era il discepolo più indegno. Era inaffidabile. Chi avrebbe ancora avuto fiducia in lui? Chi avrebbe puntato su di lui? Chi, mai, gli avrebbe affidato dei compiti? E, in questa situazione, con tali prospettive, che noi dobbiamo considerare il seguito della vita di Pietro, cioè l'incontro che egli ebbe con Gesù dopo la resurrezione del Maestro. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Io vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Così uscirono e salirono subito sulla barca. Ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli, tuttavia, non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro: «Figlioli, avete qualcosa da mangiare?» Essi gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace con sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra le rete, piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». Or nessuno dei discepoli ardiva chiedergli «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, e così pure del pesce. Ora questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone di Giona, mi ami tu più di costoro?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo». Gesù gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli chiese di nuovo una seconda volta, «Simone di Giona, mi ami tu?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo». Gesù gli disse, «Abbi cura delle mie pecore». Gli chiese per la terza volta, «Simone di Giona, mi ami tu?» Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto, «Mi ami tu?» E gli rispose, «Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo». Gesù gli disse, «Pasci le mie pecore. In verità ti dico che, quando eri giovane, ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani, e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti». Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, gli disse, «Seguimi», Giovanni 21, 1-19. Dopo il suo rinnegamento, Pietro aveva considerato chiuso il suo impegno per il suo maestro, che, anche a causa sua, era stato crocifisso, e al quale egli non era stato in grado neanche d'essere fedele. È vero che aveva lasciato ogni cosa per seguirlo, ma ora l'atto più coerente era tornare alla sua attività secolare, pescare pesci, anziché uomini. Ma ecco che improvvisamente si affaccia di nuovo nella sua vita la persona di Gesù. Vi erano più discepoli, ma Gesù si rivolge personalmente a Pietro, ponendogli la domanda più cruciale che potesse fargli. Domanda che, alla luce dei fatti avvenuti, esigeva la più imbarazzante risposta e alla quale Pietro non avrebbe mai voluto rispondere. «Simone di Giona, mi ami tu?» Gesù glielo chiese per tre volte e Pietro per tre volte rispose di amarlo. Solo dopo questo colloquio Gesù, rivolgendosi a Pietro, disse «Seguimi». Da quel giorno Pietro seguì veramente il suo maestro e lo fece fino al punto di dare la sua vita per lui. E, come leggiamo, con quella morte glorificò Dio. Pietro aveva dato prova d'essere inaffidabile, aveva dimostrato a tutti quanto fosse incoerente. Gesù però puntò su di lui. Gli accordò la fiducia che si riconosce alla persona migliore. Aveva fatto bene Gesù, e come giocare ai cavalli, e puntare su di un cavallo che fino a quel momento è sempre arrivato ultimo. Ma Gesù non si era sbagliato. Pietro onorò la scelta di Cristo e gli restò fedele fino all'estremo sacrificio. Questo episodio mette in risalto una grande verità che, se compresa e vissuta, può rivoluzionare la nostra vita e quella di chi ci sta accanto. Tutti noi sbagliamo in molte cose e in molte maniere. Ognuno di noi ha dato, prima o poi, motivo di essere considerato inaffidabile. Lo dimostriamo nel matrimonio, stringendo il quale promettiamo di restare fedeli al nostro coniuge fino alla morte. Poi, alla prima tempesta emotiva rompiamo tutto. Lo dimostrano i nostri rapporti con il prossimo, che manteniamo fino a che tutto va bene, ma che, al primo sospetto di qualsiasi mancanza da parte dell'altra persona o alla prima incomprensione, rivelano quanto instabile fosse, in realtà, l'amicizia che ci legava. Ancora una volta, dobbiamo ribaltare l'intera questione affinché essa possa produrre in noi un beneficio divino. Il problema sorge quando il nostro coniuge, l'amico, il fratello in fede, cadono rovinosamente in atteggiamenti incoerenti e di conseguenza in noi nasce un sentimento di totale sfiducia o mancanza di stima verso di loro. Per noi tali persone non sono assolutamente più affidabili, come lo era Pietro per Gesù e gli altri. Cosa fare? Dimenticare? Non è possibile. Non sarebbe saggio. Gesù non dimenticò ciò che Pietro aveva detto e fatto. Eppure gli affidò una delle missioni più impegnative. «Abbi cura delle mie pecore». Come poteva Gesù decidere di fidarsi ancora, di chi aveva dato prova di essere inaffidabile, incoerente. Eppure egli lo fece. Queste riflessioni non hanno lo scopo di incoraggiare a fidarsi ostinatamente di chiunque abbia dimostrato, per lungo tempo, di non essere affidabile. Ciò sarebbe pura follia. Il mio desiderio è incoraggiare a non gettare la spugna ai primi ostacoli nei rapporti con il prossimo o con un familiare, con il coniuge, l'amico, un fratello in fede. Si commettono errori ponendo fiducia su chi non deve essere posta, ma si sbaglia altrettanto non offrendo la possibilità di riscattarsi a chi abbia commesso errori. Se fossimo vissuti al tempo degli apostoli, molto probabilmente noi avremmo etichettato per sempre Pietro quale persona incoerente, inaffidabile. Ciò avrebbe avuto anche un'umanamente valida motivazione. Ma Gesù lo ha riabilitato. Il Salvatore ha avuto fiducia in lui. Dobbiamo chiedere a Dio di saper cogliere nelle persone le loro qualità peculiari che sfuggono ai più. Mi ha sempre toccato una preghiera che, se fosse imparata a memoria non solo a parole ma anche come contenuto, recitata e vissuta, darebbe i suoi frutti nei rapporti con il prossimo. Signore, preservami dall'abitudine di pensare che devo esprimere un'opinione su ogni argomento e in ogni occasione. Toglimi il desiderio ardente di sistemare gli affari degli altri. Accordami la grazia di saper porgere orecchio alle altrui sofferenze. Aiutami a tollerare con pazienza. Insegnami la gloriosa lezione secondo la quale a volte posso anche aver torto. Mantienimi ragionevolmente dolce. Non voglio diventare un santo, i santi hanno un carattere così difficile a volte, ma un vecchio inacidito è una delle supreme opere del diavolo. Dammi la capacità di vedere cose buone in luoghi inattesi e talento in persone insospettate. E dammi, Signore, la capacità di dirglielo. Prendimi assorto, ma non lunatico, servizievole, ma non prevaricatore. Mi rendo conto che sia molto difficile fidarsi di chi abbia dato prova di non essere fedele in parole, come nei fatti. Ma tutto, come spesso succede, dipende dall'opinione che abbiamo di noi stessi. Se ci riconosciamo mancanti, se riconosciamo di essere stati a volte noi stessi incoerenti, se vediamo il prossimo migliore di noi, allora saremo disposti a dare fiducia a chi ci abbia dato prova di incoerenza. L'esempio di Gesù non deve essere solo apprezzato, ma anche imitato. Se diamo fiducia agli altri daranno fiducia a noi. Chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Proverbi 11 e 25. Essere ritenuti degni di fiducia, che è uno dei bisogni morali più sentiti. Possiamo sopportare di essere ritenuti permalosi, difficili, anche insopportabili. Ma se chi ci sta intorno non sceglie di darci fiducia per il nostro agire e parlare, nonostante gli svariati errori dei quali ci possiamo macchiare, allora saremo stimolati a diventare persone inaffidabili, perché sfiduciati in noi stessi dal marchio negativo e di condanna che ci viene apposto da altri. Alcune persone inaffidabili sono diventate tali per non essere state prese sul serio, per non essere state apprezzate, semplicemente come persone, per non aver potuto godere di un'altra possibilità di riscatto dagli errori commessi. Per essere state condannate da giudizi e pregiudizi, senza ombra di dubbio, anche giustificati, anziché aiutate ad uscire fuori del loro circolo vizioso. Se non vogliamo cadere nello stesso circolo vizioso, facciamo in modo che altri non ci cadano, a causa del nostro atteggiamento di chiusura nei loro confronti, dando loro fiducia, affinché i nostri rapporti con il prossimo migliorino. Dobbiamo accettare d'essere soggetti, tutti in ugual modo, a continua trasformazione. Ciò che eravamo ieri non è necessariamente ciò che siamo oggi o che diventeremo domani. Ogni giorno la realtà smantella idee e preconcetti sbagliati, rivediamo opinioni e persone in un'ottica diversa. Ecco perché dobbiamo avere il coraggio di rivedere un rapporto familiare, matrimoniale, fraterno, d'amicizia. Quando stavo per consegnare a mia madre, con tanto d'orgoglio, la mia prima busta paga, mi accorsi, con terrore, d'averla persa. Grazie a Dio la ritrovai, ma da quel giorno ogni volta che mi consegna qualcosa di importante, puntualmente, mia madre mi ricorda di stare attento. Perché avevo perso la busta. Un coniuge rinfaccia all'altro parole improprie, che sono state scambiate magari 10, 20 o 30 anni prima. Un fratello in fede si lega al dito un'ingiustizia subita. Se Gesù non avesse perdonato Pietro, se si fosse legato al dito il rinnegamento ricevuto, se gli avesse rinfacciato il suo comportamento, non avrebbe dato occasione a questo discepolo di glorificarlo. Il Dio dei cristiani è il Dio della seconda possibilità. È vero che ci siano situazioni irreversibili, ma queste devono essere ritenute tali solo dopo aver tentato e ritentato di recuperare chi sbaglia. Gesù dicendo di perdonare il nostro prossimo 70 volte 7, quando questi ce lo chieda, voleva intendere anche questo, non fermarsi ai primi sintomi di incoerenza, di inaffidabilità. Ricordiamo Elia, un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. La nostra fragilità umana non è un impedimento per glorificare Dio. E difficile dare fiducia se la non si è ricevuta. Quando una persona consacra la sua vita a Gesù Cristo, egli lo prende in parola. Dio conosce ogni cosa, sa che molti si comporteranno come Pietro e altri molto peggio. Eppure Gesù Cristo non rifiuta nessuno di coloro che vanno a Lui. Se tu sei stato accettato come sei, se sei stato considerato affidabile, al momento della tua resa a Dio, non puoi sottrarti al dovere di ritenere affidabili coloro che ti sono accanto. Se non lo sono, sono problemi loro. Ma tu sarai ritenuto affidabile se avrai ritenuto a tua volta affidabile il tuo prossimo. Dare fiducia al prossimo, ritenerlo, comunque degno della tua fiducia, ricordalo. Significa amarlo. Aprile 2003, Ellero.